Russia, zona rossa estemporanea, e una via. Chiamata, una chiamata soltanto. Alza, madonna quanto siamo bravi. Meno male che ce ne accorgiamo. Sì? Buonasera! Buonasera! Sei su zona rossa estemporanea! Ma cosa vuol dire? Sì. Eravamo qua a far nulla, abbiamo improvvisato. Facciamo un zona rossa così, perché hanno lo spazio di ciclo di fianco. Esattamente. Il pusillanime AKA. Di prenderti la cassetta, Sì, sì, me lo ricordo. Cioè, ma cos'è? Tuo padre? Abbiamo ordinato una cassetta, Cigo racconta. Allora, abbiamo organizzato. Vabbè, allora fa tutto Lorenzo e me ne vado. Ciao, grazie. Ma no, no, scherzando, prego, prego. Abbiamo ordinato finalmente una pellicola, tipo a marzo era, sì, giù di lì. Ma una pellicola di che tipo? Un cookie? Quello per coprire il pollo in frigo? Tipo, però per le videocamere. Ah, quindi copri le videocamere, esatto, con la pellicola prima di metterle per nel pollo. Per la pioggia. Prima di metterle nel pollo. Nel pollo, certo. E poi nel forno. E poi nel forno. Con saltatina in padella alla fine. Quindi viene un pollo ripieno di telecamera al forno. Esatto. Lorenzo, un commento? Io? No, quell'altro Lorenzo che è di fianco a te. Ah, ok, aspetta che te lo passo. Grazie. Sì, mi dica. Lorenzo, ciao, un commento sul pollo ripieno di telecamera al forno? Ah, è buonissimo, ne ho mangiato uno l'estate scorsa in Toscana che vi dico, guardate, è pazzesco, veramente. E poi passa il tempo a lamentarsi che è povero, va in giro Toscana, piatti al forno. Fa la vita da ricco. Questo programma Zona Rossa alla fine dell'intrattenimento telefonico può uscire una canzone. Mamma mia, se ci dici che canzone te la mettiamo pure. Subito? E vai. Ce l'ha in testa tutto il giorno, si chiama My Girl di Nirvana. My Girl, madonna, sei veramente un ragazzo romantico, direi quasi un Piri. Secondo me non c'è. No, non c'è, non c'è, quindi a questo punto Cicognini vai. Mentre devo io andare... faccio la solita routine, no, vado io a cercare la te, dischi, okay. Tu parli con Lorenzo. Vinili, ok. Che avete una stanza di vinili bellissima. Esatto, sì, esatto. Sì, confermo, è tipo comunque, quattro piani. Volevo fare una dichiarazione in diretta, se posso. Vai, se devi. Praticamente l'altro Lorenzo, quello che avete chiamato prima, sì, che non sono io, altro, sì, mi ha detto che gli piacerebbe fare questa cosa durante l'estate. Attenzione. Dato che il programma a cui è affezionato moltissimo Zona Rossa, ovviamente per causa di forza maggiore inizierà a saltare delle puntate, no? Perché poi la gente si spaventa ad andare in diretta senza Lorenzo in questione e Guglielmo, no? Secondo me queste sono illazioni, esatto. Cose orrende che tu stai dicendo, ma che non puoi provare. O le puoi provare? Stavamo pensando con Lorenzo in questione che sarebbe bellissimo fondamentalmente riascoltare tutte le puntate di Zona Rossa, trovargli diciamo una descrizione di massimo una riga con 7-8 parole e fare delle grafiche mozzafiato per rilanciare i podcast. Potrebbe essere interessante, come che no? Non lo so, tu Cigo cosa ne pensi? Ma proprio come Zona Rossa. Esatto, bravo, bravo, è bello ma anche no. Esattamente la descrizione di Zona Rossa. È bello ma anche no. È triste ammettere di Nirvana. Comunque volevo far notare che c'era una tessera della Lidl nell'aula dischi, l'hai vista? No, no, sì, c'era una tessera della Lidl, tessera della Lidl. Soprattutto noi l'abbiamo, stiamo cercando nella stanza dei vinili, ma soprattutto abbiamo notato che la sedia in radio gli manca una rotella. Ah sì, esatto, quella ormai non si attacca più, quindi è da scaricare in discarica o incollare in qualche modo e sostituirla. Vabbè, però l'abbiamo messa lì, c'è come una si faceva una bellissima in aula studio. Attenzione! Ma tu conosci qualcuno che gestisce l'aula studio? Anzi, c'è una sedia bellissima in aula teatro. Attenzione! Quella con le rotelle. Aspettate che in questo momento potrebbe essere la freddura della settimana. Attenzione, c'è il Cesa. Ah, Zona Rossa estemporaneo. Oh mio Cesa, Dio, Cesa, un invitato importantissimo. Mamma mia. Buonasera carissimo. Allora, la freddura della settimana, sì, è sempre riguardante un'attività che si fa dentro ZAM. Ma è un'attività che in realtà è già stata freddurata, però mi è venuta così. Che è la palestra. Attenzione. Qual è il personaggio del Vangelo che va sempre in palestra? Attenzione, non lo so. Ce lo dica. Ponzio Pilates. Mamma mia. Zona Rossa estemporanea, 4 minuti e 33 di registrazione, siamo già alle stelle. Tipo una puntata bellissima. Grandi raga. Ciao Cesa, è stato bellissimo. Ciao, grazie. Cesa. Niente, grazie niente, Lorenzo, chiunque tu sia dei due Lorenzo che abbiamo sentito oggi, è impossibile praticamente riuscire a scaricare quella cazzo. No, ce l'abbiamo fatta. Ah, 18 volte. L'ho scaricata 18 volte, ma non è nemmeno la canzone che volevo io. Vabbè, te la becchi lo stesso e come dice quel film te la pruzzi così. Ma My Girl di Nirvana. Ma raga, io ho cercato My Girl di Nirvana, ma mi è uscito Where Did You... Come cazzo? Where did you last night? Where did you sleep last night? Ma come mai? Come mai io ho cercato My Girl di Nirvana e mi è uscita fuori la roba? Forse sarà, avrà quel titolo lì e sono io che la chiamo My Girl. Ah, ok. Perché potrebbe, mi sa che in realtà essere, anche qualcun altro l'ha chiamata My Girl. Però io adesso faccio così, passo di lì, prendo e ti porto via, come cantava il famoso... come il famoso... la freddura? Eh? La freddura com'è andata? Guarda, stiamo veramente gelando male. Cioè, tipo abbiamo dovuto chiudere tutte le finestre della radio, toglierla al minimo di corrente e abbiamo anche un felpino con il calorifero a fianco. Esatto. Quello. Ma Madonna, quindi a questo punto noi potremmo scoprire che in realtà la canzone c'era, ma avendomi tu dato il titolo sbagliato, se abbiamo finito per cercarla inutilmente. Ma va bene. Probabilmente sì. Grazie Lorenzo. È zona rossa. Quando volete. Perfetto. Un po' di gente qua da chiamare. Dai, dai, tra poco non li chiamiamo tutti. Facciamo a tutti. Non ti preoccupare. Bene. Va bene, bene, carissimo. La canzone. Ti ringraziamo. Ascoltati la canzone direttamente dalle casse della radio. Yes. Ciao, bellissimo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Pica, ciao, ciao. Ciao, Cigo. Ciao. Lancia la canzone, Cigognini. E questa è Where Did You Sleep Tonight? Last Night. Cazzo, dico. Dei Nirvana. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the corn wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body never was found. My girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night Grazie, grazie Kurt. Grazie, grazie a tutti. Ci vediamo il prossimo mercoledì. E anche tu che sei alla batteria, ti rivedremo. Devo abbassare lo stereo. Sì. Ti rivedremo, io credo, in un gruppo che si chiama Foo Fighters. Tu che stai alla batteria, grazie. Ciao. Ci vediamo. Ciao. È andata così, è andata alla così. Anche. Lo sapevi? Batterista. No, non lo sapevo. È diventato mi mancava. Dave Grohl, forse. Sto dicendo cazzate. Ma comunque, Zona Rossa è un programma che soprattutto sorprende in tutti i sensi, 360 gradi, vero Cico? Assolutamente. Sorpreziosissimo. Ogni giorno, infatti, a sorpresa, siamo in diretta anche oggi. Minchia, veramente. Cioè, a volte ci sorprendiamo anche noi da soli. Cioè siamo anche in sorpresa. Dal nulla. Ci prendiamo in autosorpresa. Cosa sta succedendo? Ma qua c'è un possibile ospite. Attenzione, un ospitissimo. C'è un possibile ospite. Oh, un bellissimo ospite di Zona Rossa. Si sieda, carissimo. Prenda il microfono. Giù non va. La luce. Giù non va la luce. Giù la luce in polisportiva. Qualcuno avrà pasticciato i comandi. Speriamo di no. Non ho idea, penso uno solo, alto, magro, almeno quanto te. O forse almeno quanto me. Tu ce l'hai le chiavi della stanza? Io ce l'ho, ma sono giù di sotto. È bello fare una diretta radio in cui parliamo con una persona in studio che non parla nei microfoni, quindi le persone saranno contentissime. Vai Elia, raccontaci in che punto sei del tuo lavoro in questo momento. Vado giù a prendere le chiavi. Qual è il mio lavoro? Cioè, quello solito? Quello vero? Ragazzi, tuo lavoro. Prego, ci ma male. Anche te. E allora cosa si dice? Ma niente. Aspetta, no, devi girarla. Ok, scusate l'assenza, problema tecnico. Ma dici che c'è qualcuno che ci ascolta? Secondo me no. Ma facciamo un cambio microfono. E c'è anche un'altra ospite. Attenzione. Comunque controlli se qualcuno ci sta ascoltando in questo momento. Non penso, eh. Però... Attenzione, pure gioia. Radio. Un ascoltatore che secondo me è Pica da giù. Ok, abbiamo un ascoltatore comunque. Ciao Pica. Ho preso il possesso. Ok. In realtà è Zona Rossa improvvisata. Se hai qualcosa da dire, capito. Dillo. E non lo so, Cico, io ero venuta qua per farmi ispirare e... Adesso la puntata diventerà più noiosa. Ma no, dai. Intanto ne approfitto per farmi anche un drummino. Oddio, quindi è tutto in mano a me. Sì. Porca cazzo. No, non era mai successo. Però vediamo. Allora, intanto mi viene da chiedere a me stessa, visto che Cigo è impegnato, come mai oggi faccio così caldo? Ottima domanda. Secondo te perché? Pianeti, sole, stelle, costellazioni. Ok, ho capito, Capricorno. Ma invece, proprio parlando di stelle, costellazioni, e quindi ci inoltriamo nel mondo dei sogni. Ho paura. No, dai, il mondo dei sogni è un mondo piacevole. Oddio, poi ci sono anche gli incubi, però... Di solito gli incubi sono piacevoli. No, dico di solito sono piacevoli. Esatto. Quindi Cigo, la mia domanda è questa. Attenzione. Cambio di host del certo. programma. Io sono più brava a fare domande. Ok. E ad ascoltare che a parlare. Quindi la mia domanda è questa. Cos'hai sognato questa notte appena passata? Io non me li ricordo i sogni. Ma 0-0. 0-0-0. Guglielmo... Salvo rari casi, ma poi me li dimentico 2 ore dopo, più o meno. Cioè, okay. Me li ricordo per poco e poi me li dimentico. Va bene. E invece, Ciro, mi viene in mente adesso un'altra domanda. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Allora, il mio sogno nel cassetto... Niccelo. Ma lei? Direi finire l'università entro 3 anni. Ale. Non andare fuori corso in università. Questo sarà possibile, sono sicura che... Non lo so. Diciamo che tenendo ogni tanto una trasmissione radio e non passando l'esame di radio non promette benissimo. Come no, non passi? Hai un esame di radio tu? Comunicazione radiofonica. Ma che figata, e cosa ti insegnano? Allora, c'è una parte di ascolto che è quella per cui sono stato bocciato. Perché? Ovviamente. Come perché mai? Non avevo fatto bene gli ascolti. E quindi non sapevo come erano strutturati dei programmi fatto? Storici e non della radio italiana. Ok. E poi c'è tutta la parte tecnica dove ti spiegano le basi per creare un programma radiofonico, i ruoli all'interno di una radio, un po' di storia della radio, partendo soprattutto. E qui i ruoli quali sono secondo te da noi? Qui i ruoli è one man show praticamente. o one man or woman, or two men and woman. Fermi tutti un attimo, faccio una cosa brutta. Cosa sta succedendo? Secondo me, allora, ma io non ti sento. Vediamo se alziamo l'audio. Non era in questo? Beh, io adesso sento meglio tutto e tutto. Così adesso mi sentite? Non penso. Sì, sì, mi sì. Allora sì, sono sì. Solo io che non mi sento. Fantastico. Bisogna alzare l'audio delle tue cuffie. Queste cuffie fanno cagare. Può essere. Sì, può sì. Essere. No, mi sento io basso, ma vabbè, tanto mi sento dalla mia bocca. Ma penso che sia anche normale con quel microfono. Ma vabbè, sì. Noi ti sentiamo. Comunque, Gulli, io ho chiesto a Cigo prima due cose. Due. Allora, la prima è... Guarda com'è radiofonica lei. È un botto posizione sublunga. Ormai è la mia seconda casa, la radio, esatto. Se posso permettermi. I tuoi amici ormai sono tutti quelli invisibili che stanno dall'altra parte del microfono. Esattamente. Esattamente. Quell'ascoltatore che ci ascolta e che non si sa mai chi è, ma... Secondo me è, deve essere sempre. Tipo un errore del software che conta se stesso mentre conta gli ascolti, capito? Una roba del genere. Quindi... Comunque. Però non hai finito la domanda di prima, Cigo, eh? Quella sui ruoli della radio. Finisci quella. No, certo, gliel'ho chiesto e alla fine facciamo tutto le singole persone che sono all'interno e che tengono la trasmissione. Quindi presentatore, scelta musicale, produttori, tecnico, quindi radiofonico. Quindi Gioia, secondo te noi cosa DJ. Facciamo? Cioè noi sovvertiamo nell'autogestione, noi sovvertiamo i ruoli di potere. Madonna! Via! Gioia è sempre sul pezzo, sempre sul pezzo. Beh, diciamo che il discorso sul potere è un discorso che a me affascina molto. Lo sappiamo. Ti sei lumata più volte le statue del tuo amico, come si chiama? Le statue? Sì, le statue, le rappresentazioni fisiche di quel ragazzo francese che parla. Il ragazzo francese si chiama Foucault. Ecco, esatto. Si chiama Foucault ed è un po' morto. Il ragazzino. No, appunto, perché è morto, ti sei bombata più volte le sue opere funerarie, la tomba. No, beh, sì, mi affascina molto Foucault, è vero. Sarà la pelata, dici. Sarà quel fascino. Sì, oppure che sia un compagno, magari. Non lo so. Ma secondo te quando Foucault parlava con la sua compagna e i suoi compagni, cose normali? Tipo, era omosessuale. Appunto, beh, è uguale, non è che devo mettere per forza la sua stessa. Hai dato per scontato che fosse eterosessuale. Suo compagno, va bene, compagno. Va bene. Compagna. Okay, è vero, okay. Sono stato un pochino eteronormato. È vero. Apprezziamo così, nella sua quotidianità, i suoi amici, le sue amiche, il suo compagno. Quando diceva, oh ragazzi, stasera andiamo al mare e ci sfondiamo di birre, come lo diceva? Andiamo a interrompere la funzione del biopotere nelle nostre menti, inframmezzandolo no, con dei. Semmai assecondiamo il biopotere. Si che... avvicina un ospite, intanto. C'è un altro ospite. C'è un altro ospite. Oh mio Dio. No, te lo chiedo. Qua stanno io. Madonna, che coniglio. Comunque, per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, dobbiamo dire che Dupe ha chiesto un accendino. Dupe ha chiesto un accendino. Dupe, per correttezza. Dai. È tornato. Niente, lui c'è questo accendino. Ma invece Gioia, tu cosa hai sognato l'ultima volta che hai sognato? Oddio, è difficile. Dobbiamo spegnere i microfoni? Forse sì. Vai, spegni, mettiamo una traccia e poi a quel punto no. Riparleremo più tardi. Ciao a tutti, e tra poco. Riparleremo il tutto. Io sono scioccato. Passa il volume. altro. Dicevo, Cico, io sono veramente scioccato. Anch'io non mi aspettavo che Gioia nel suo inconscio potesse pensare determinate cose. Vabbè, dai, raga, non è così terribile. Cioè, l'aria in radio è diventata rovente per un sogno erotico spintissimo, ma subito dopo è diventata un po' allucinante, poi un po'... Se prima era fredda per colpa del Cesa, adesso è caldissima. Ma poi è diventata un po' onirica, ma onirica male. Mm. Cioè, tipo, non so, come quando un ananas si fa sesso con un cactus. Ah, ma non è vero. Ma le stesse con rabbia, lo stesso pagatti che hanno il pene spinato. Ma dai. No, non è vero, un po' troppo così però, Cico, secondo però me. Era anche un po' più dolce. Era uno socchiotto con un ananas che faceva un amore con un cactus, ma gentile, con tanto amore. No, passionale. Passionale. Guarda come è contenta mentre dice passionale però. Cioè, dobbiamo mettere la telecamera comunque. La telecamera radio, quando non ci sono, magari. Quando non ci sei tu, esatto. Vabbè, Razzarossa, si parla di sogni. Esatto, io volevo chiedere a te, Gulli, cosa hai sognato questa notte? Ma guarda, io faccio parte della scuola di Cigo, sarà una ventina d'anni abbastanza ormai, quasi una ventina d'anni che non sogno pochissimo, molto più semplicemente sogno, ma mi dimentico quello che ho sognato. Sono veramente, si contano sulla dita di una mano i sogni che mi ricordo in un mese, ma anche di più, cioè magari in 2-3 mesi capace che non mi ricordo mai quello che ho sognato. Ma, buffo, perché qualche giorno fa mi ricordo cosa ho sognato di litigare con la nostra compagna Jordi, che gliel'ho anche detto. Proprio era un frame chiarissimo, classica scena, centro sociale, lei esce col pentolone per mangiare, io la vedo un po' affaticata sotto il peso, gli do una mano a portare il pentolone, ma lei giustamente mi dice vaffanculo, stronzo, ce la potevo fare benissimo. E quindi niente, mi svegliavo con senso di colpa di aver fatto per l'ennesima volta una roba sconveniente, che fotti la compagna, che l'altra non aveva bisogno, e quindi vaffanculo, hai fatto una roba severo ma giusto, il machismo, il sessismo, del genere. Beh, ma direi che la cosa si può bypassare semplicemente chiedendo. Cosa? Chiedendo, hai bisogno di una mano? No, beh sì, certo, ma nel sogno, naturalmente io chiedevo, hai bisogno di una mano, cioè alla fine la roba era proprio una situazione quotidiana, però poi da lì a poco scattava nel sogno, in poche parole diventava subito un litigio, una questione. Ok. I sogni non sono poi così chiari, no, okay. Gioia? Tu... Ma e invece la seconda domanda. Attenzione. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Ma il sogno nel cassetto è avere un sacco di soldi da spendere per fare un sacco di cose. Per fare tanti centri sociali. Bravo, sì, esatto, per poterci permettere, che so, cose belle, non dover sguazzare nella miseria materiale in cui siamo costretti sempre. Autoreddito. Bravo, pagare qualcuno per fare politica. Cioè, mi piacerebbe essere un po' Bruce Wayne. Capito? Bruce Wayne della situa che arriva, il suo superpotere sono i soldi e pompa soldi in qualsiasi cosa, perché tutto... Piccola parentesi, obiettivamente Batman è il supereroe più inutile della storia. Ti dirò, qualche giorno fa, dato che a Camilla essenzialmente facciamo due cose, facciamo i moratori e guardiamo film orrendi, sono le nostre due passioni, abbiamo guardato l'ennesimo film Batman vs Superman, piuttosto che quelle robe lì, e c'è una battuta, in realtà Batman lo dice, c'è un personaggio che dice, qual è il tuo superpotere? E lui, io sono ricco. No. Pensa, è arrivato all'autocoscienza. Dai, ma però che tristezza, se posso dire. Ho capito, però almeno è l'unico supereroe realistico. Cioè, questo quell'altro è un altro pianeta. Quello vabbè, corre ma se come... guardo il film dei supereroi non voglio la roba realistica, voglio la roba... non è vero. Anzi, se dai. Per me più è trash, meglio è. Ma non è vero. devono esserci effetti speciali fatti male. Ma scusa, ma tu tra un film di Superman e un film di Spider-Man, cosa guardi? Cosa di Spider-Man. Dire? Perché? Perché è realistico, perché è più figo, perché è ambientato a New York, non in un paese, non in una metropoli fittizia, perché lui ha dei veri problemi, lui è adolescente, c'ha la tipa che lo molla, sì, uno sfigato, sì. Non riesce a fare quello che vuole, non c'ha soldi, poi c'è la tipa figa che a cui vorrebbe tanto piacere ma non può, e gli piace come Spider-Man ma non come lui, Peter Parker. Vabbè. Che non è Peter Parker, questo è un buon punto, no, guardate, ecco, mi è venuta in mente un'altra domanda da farvi. Attenzione. Ragazzi, oggi è gioia in modalità domanda. Va qual bene. È il vostro alter ego? È Cigo la carogna, probabilmente il mio alter ego. Lui potrebbe essere il personaggio del libro di... come si chiama? Non di Sciascia, l'altro autore siciliano che è morto da poco. Quello che ha scritto Montalbano, Camilleri. Tu potresti essere tipo l'acerrimo nemico di Montalbano. Cigo la carogna. Mamma mia. Sto killer che si muove a Messina. Mi sto cacando sotto. A Messina sullo stretto, nelle ombre della città vecchia. Il killer dello stretto di Messina. Solo tra Reggio Calabria e... Milanese di Assago. E invece Gulli. Cigo, dimmi di Gulli. Vai. L'alter ego di Gulli? Sì. Ma guarda, sono già abbastanza scemo. Oddio, così. Esatto. Ah, diciamo che ne basta uno. Esatto. Ma parliamo di gioia. No, l'altro di Gulli. No. Visto come, secondo me, visto come proprio l'opposto di Gulli, potrebbe essere tipo Norberto. Quindi non fare niente dalla mattina alla sera. Non avere. Attenzione, oddio, arrivano chiamate non dirette. Certamente a zona rossa, ma le prenderemo la stessa in zona rossa. Ciao Elena. Ciao. Come stai? Tutto bene? Sì, tu? Tutto a posto. Ascolta, ma sono qua in radio con degli amici che ci ascoltano. Sono tipo 30-40 persone collegate alla radio perché sei in diretta. Ciao Elena. Ciao Elena. Ciao. Ciao. Non te l'aspettavi questa? Ma perché ti ho richiamato? Non so, perché evidentemente è un problema con la solitudine, Elena. Allora Elena, noi abbiamo qualche domanda per te. Vai Gioia, colpisci. Allora, Gioia, la prima domanda è: cosa hai sognato stanotte? Oddio, no, non me lo ricordo, ma credo niente, perché ero un po' agitata che non mi sono appena sveglia. Attenzione. Ai. Vabbè, ma qua puoi anche inventare tutto quello che vuoi. Cosa avresti voluto sognare, Elena? Cioè, ricordati che sei in fascia protetta, Elena. Ma esatto, cioè, si può dire? Cosa? Non so se si può dire. Ma puoi dire tutto. A questo punto allora vogliamo saperlo. Ma... Dillo, ma dai. Ma no, dai, facciamo che avrei voluto sognare di essere al mare su una maca. Dai, un po' di brio. Mamma mia, c'ho un braccio bloccato. Cosa? Cosa sembra? No, niente, mi sentivo che c'è un po' di ingessamento qua. Non so, sentivo il gesso al braccio. Dico, dai, su. Era solo la prima domanda, raga. Ah, giusto, si deve scaldare un attimo. Vai, Cico, vai con la seconda. La seconda era: qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto? Ma quale cassetto? Quello dei coltelli, Elena. Quale cassetto? Usti! Attenzione! Allora, nel cassetto dei coltelli, vabbè, sicuramente colpire Gulli con uno di questi coltelli. Grande! Guarda che fuori di dirlo, prima o poi succede e le cose sono due. O mi uccidi a primo colpo o poi avrai dei problemi grandissimi. Oppure secondo vivrai per sempre con l'idea, non il rimorso, perché figura se farai bene uccidermi. No, vivrò per sempre e diventerò immortale. Grande, ma uccidendo me, perché siamo tipo gli ultimi due Highlander, citando il telefilm anni 80 o... Sta per diventare un film splatter questa storia, però va bene. Bello, bello, e quindi a questo punto arriviamo all'ultima domanda. Vai Gioia. Okay, qual è l'ultima domanda? Qual è il tuo alter ego, Elena? Ah, ecco. Le devo ricordare io per Gioia. Usti. Ma potevate avvisarmi prima che mi preparavo le risposte? No. No, se no non è divertente. Se no non è zona rossa, non giusto, è zona Ciro? Rossa, se no. Dai. Ma no, non ce l'ho, cioè perché sono speciale, non è un alter ego. Perché si è umile. È umile. È umile anche. Sono umile e speciale. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie Elena, è fantastico parlare con te, è come camminare in un bosco d'estate, incendiario. C'è qualcuno che ci chiama? Benissimo. Va bene, grazie cara, in realtà, dato che noi siamo della gente che fa le cose seriamente, ti avevo chiamato perché dovevo capire se le prendi la scrivania o meno, scusate, faccio un utilizzo privato della radio. Ma infatti io pensavo che tu mi chiamassi per quella cosa e per cui mi sono presa male e ho detto, vabbè, richiamiamolo, se no non avrei mai fatto questa cosa. Grazie mille, ti rutterai nel microfono, ma non mi riesce, per cui... Facciamo che questa cosa magari ti rispondo in privato e non via radio. Ma va, stai scherzando, Zona Rossa nasce primariamente per piazzare i mobili che stanno a zampa, per cui lo vuoi o non lo vuoi? In realtà devo ancora capire che spazio ha nella mia camera perché non ho ancora montato un letto, però se hai pazienza te lo farò sapere. No, peccato perché il tavolo sta zamma è un logo comune pubblico. Attenzione, che è tornato qui su Radio ZM, saluta il pubblico. Scusami Elena, arriviamo subito. Ciao a tutti. Mamma, come sei radiofonico. Salutiamo Andrea Bagnoli, ciao. Vabbè, dai, niente, ci sentiamo in privato, ciao Elena. Ciao Elena. Ciao. Ciao. E niente, Zona Rossa Estemporanea regala sempre grandissime emozioni. Intanto comunque, io preparo la prossima chiamata, ospiti, va bene? Vai, vai, preparo, Uli, preparo. Così rasato sei bellissimo, sembri... Mi serve il tuo tocco artistico. Più brutto e scemo. Minchia, Kirillin, chi hai tirato fuori? Come, scusa, Svevo? Vuoi dire la radio? Sì, chiedevo se gradisci la pizza. Ma sì, dai, la scegli tu come al solito? No, non sono abbastanza temerario. Va bene, allora scegli Giulia per me, eh? La pizza? Vai, pigliati una roba tipo marmellata di carciofi. Marmellata e salsiccia, apposta. Sì, una roba che piace a te, dai. Esatto, di quelle lì. Niente, nel frattempo che Gioia fruga nei miei messaggi. No, non riesco a trovare la rubrica. Guarda, se pigi sul telefonino, nei telefoni moderni, ah, ecco. E poi fai il cerca. Scusa, Gioia, scusa, volevo. Cico, parlaci di te. Ma anche no. Samuele Cicognini nasce. Nasce a Milano il 29 maggio 1999. Madonna, quanto fai schifo. Allora, io ho trovato il prossimo, la prossima. Ma chiama, gli facciamo fare la presentazione di Cico. No, Cico. Per carità di Dio. Ma è così, a scatola chiusa sta chiamando. Parli. Che tra l'altro chi? Questa è Zona Rossa Estemporanea. Avevamo un'ora di buco e abbiamo detto via. Facciamo del male al genere umano. Pensavo tipo Zona Rosso Bruna. Uomo del flessibile. Ciao, ma chi sta parlando? Con te. Mi hanno preso il telefono di mano e hanno chiamato della gente, ma siamo live in diretta su Radio ZM. No, Madonna, voi siete fuori di testa. Ciao Leila. Ciao Leila. Colpa mia. Ciao. L'ho scoperto adesso, ma a questo punto possiamo fare uno scoop in diretta. Il Lambretta prende il cibo da Italy. Non è vero, bugia, calunnia. Noi continuiamo a portare avanti la nostra lotta No Expo e vi ricordo che Italy è sempre stato uno dei nostri primi nemici, sin dal 2014 più o meno. È tutto dal vero. Lontano 2014. Tutto ma vero. Cosa volete da me? Ma è Zona Rossa. Volevamo farti qualche domanda. Disturbarti. Lelly. Ma siamo in diretta? Sì. No. Sì. È anche registrata. Tanto che ascolta la radio di Zam, voi due più... Le, nessuno cince allegre che vi portate nel vostro campo là dietro. Simpatica la compagna. Mamma mia. Guarda che quella stanza che il collettivo ha occupato in via Porpora magari a un certo punto crolla, eh. Dai, ditemi, fatemi queste domande. Allora Leila, la prima domanda, adesso voglio aumentare un po' di suspense, quindi ma se scusa, mi aiutano... aspetta, posso chiedere, ma il topic della puntata qual è? Cioè... sei tu il topic. Ah, sono io, perfetto. Certo. Abbiamo parlato di persone che arrivano dalla Palestina e hanno un genitore viene da Napoli. Questo è stato il topic. Caspita, della puntata. Cioè, sì, ma sì, siamo sì. Tantissimi comunque, sì, nel sì, cioè, sì, non sì. Ci sono solo io. No. Esattamente. Allora, va bene, sono pronta. Vai, Gioia. La prima domanda è questa. Sì. Cosa hai sognato stanotte? Attenzione. Cosa ho sognato stanotte? Certo. Allora è difficile perché stamattina sai quando ti svegli hai la sensazione, cioè hai tipo la sensazione del sogno, no? Mm-hmm. Comunque stiamo all'SD credo... di solito, ma va bene lo stesso, non ti preoccupare. Sono quasi convinta di aver sognato Sergio Marchese per gli amici e i compagni e le compagne detto Cina, perché sono giorni che mi ossessiona con la polizia di Via Porpora e quindi per me è diventata una specie di condanna a morte e cioè ricorre anche nei miei sogni notturni. Comunque sai che di preciso, cioè non saprei dirti cosa ho sognato stanotte, però c'entrava Cina e c'entrava anche Fabrizio. Allora direi che possiamo annunciarlo qui per dopo, che sappiamo già chi chiamare dopo. Attenzione. Di te. Esatto. No, ci l'hanno chiamato 60 volte, per vediamo. Filippo, sì. Fabrizio. Sì, Fabrizio, vi prego, vi prego. Chiamatelo e chiedetegli se è riuscito a buttare le verdure marce di Via Porpora. Fategli questa domanda. Praticamente nel Zona Rossa fa il lavoro sporco dell'Ambretta, praticamente. Va bene, siamo un'area politica anche per quello, bene così. Comunque mi vengono in mente una serie di digressioni fantastiche tipo, ma cioè, alla fine si è capito veramente se ci sono delle discendenze mandarine nel sangue di Sergio? No, non ci sono, in teoria non ci sono, poi c'è cioè, chi lo sa nel nostro sangue, le nostre radici, i nostri antenati da dove arrivano, però a quanto sappiamo noi i genitori entrambi italiani, italianissimi. Beh, comunque ariani. Cina è anche alto 2 metri. Come tutti i cinesi. Come tutti i cinesi. Esatto. Cazzo, no, perché lei sembra veramente cinese. Io soltanto un'altra persona nella mia vita avevo conosciuto che aveva dei tratti molto cinesi, ma non era veramente cinese. Sì. Ed veniva dall'Abruzzo. dall'Abruzzo. Magari anche lui ha delle origini abruzzesi, non lo sappiamo. Magari c'è una colonia, magari i cinesi vengono dall'Abruzzo. Esatto. Io ti capisco. Secondo me anche dalla Sardegna, perché anche una mia collega è di chi cinese. È questa voce? Cico. No, non dovevi dire. Ma ripeto, questa è la voce di Zan. Questo è lo spirito del comunismo che legge dallo sud. Invece di chi è? Non riconosco. Vabbè, ma non è che devi fargli brutto, però è un compagno generoso. Beh, poi la carogna. È quello che ha insultato i miei occhiali nell'ultima diretta. No, quello era Lorenzo. Comunque vedo che non te la sei legata al dito. Vedo che non è successo. Incredibile. No, non ci siamo mai conosciuti, penso. Ma com'è possibile? Mi siete mai visti? Come è possibile? Vabbè. Comunque qui stiamo un po' divagando, perché ci sono una serie di altre domande. Esatto. Gioia, ma qui c'è della gente che è impegnata a drogarsi, perché sono spuntati fuori i filtrini tabacco e altre sostanze di importazione. Ma Guglielmo, ma dove ce li hai gli occhi? Cosa c'è? Non sai per fumare? Ma voi il caldo vi quella fa male? Non è della droga, forse? Madonna. Allora, Leila, io adesso parlo con te, che sei una persona più intelligente. Sì, gioia. Allora, ti faccio la seconda domanda. Seconda domanda, dai. Ok. Madonna, qual è il tuo sogno nel cassetto? Bravo. Qual è? Il tuo sogno nel cassetto. Ah, il mio sogno nel cassetto, domanda molto facile. Vai. Liberare la Palestina, vabbè, ma questo era scontato, nel senso. Ma noi che volevamo sapere qualcosa di più personale, piccante. Per più personale della Palestina, che cioè, infatti, che cosa Guglielmo, c'è? Scusami, proprio. Ho detto io, non è tutto personale. Io ho detto piccante. Ah, okay. No, il mio sogno nel cassetto, piccante. Cioè proprio una, cioè dici un sogno intimo, personale, che non sia, che non c'entri con la Palestina. Mm-hmm. Non lo so, andare in Palestina, cioè non lo so, qualcosa che non sia legato alla Palestina la vedo molto difficile, però se no posso dirti una di quelle cose scontate, banali, si può essere una persona felice nella vita, allontanarmi dal mondo dei centri sociali prima o poi. Ecco, questo è già più fattibile. La mia indipendenza, questo è importante, questo è importante. Riprendere in mano la mia vita lontana dallo schifo dei centri sociali. Ma perché forse dovresti? È il mio sogno. Facciamolo tutti insieme. No, ma ti piace così tanto farci fare schifo? Condividete con me questo sogno? Sì e no, nel senso che ormai qualcuno di noi è disilluso, faremo per sempre schifo e rimarremo per sempre centri sociali. Rigiriamola un no. attimo. Attenzione, come dice il compagno orso, essere come i baschi in cui i centri sociali non servono. Attenzione. Non esatto, arrivare a un punto in cui i centri sociali non servono più, capite? Quindi noi possiamo anche condurre delle vite con delle abitudini alimentari sane, con un bioritmo sano. Non mangiare più pizza tutte le sere. Non mangiare più pizza. Comunque vedo che la compagna nera la mette su un piano un po' più umano. Cosa succede alla tua dieta da quando ti sei rimessa a fare politica H24? No, è una tragedia. Ma poi soprattutto un altro sogno nel cassetto è quello di eliminare il numero di assemblee che facciamo settimanalmente. Cioè, che secondo me, cioè, siamo arrivati a un punto in cui dici ok, cioè dobbiamo mettere un tetto massimo di assemblee che si possono fare. Comunque non è assolutamente vero, perché prima di Expo ne facevi sicuramente di più. No, guarda che sono di più adesso. Ma veramente? Te lo giuro. Allora, sono di più adesso. Avete organizzato male la vita, chi lo sa. Sì. Comunque c'era un'ultima domanda ancora, che era interessantissima nel caso di lei. Ancora un'altra domanda. Vai, l'ultima. Ottimo. Aspetta, no, oggi non ce la posso fare. Non ce la posso fare, raga. No, non ce la posso fare. Lei però la partita bene sul piccante, su tutte le robe un po' regalo, piccante erotico, eccetera. Che? No, la domanda era, Leila, qual è il tuo alter ego? Il mio alter ego? Ma che cazzo, ma che domande di merda fate? Ma io non lo guarda, so. Io non so chi l'ha inventata, ma sicuramente è una persona generosa e intelligente che ha studiato anche tanta sociologia e ha un debole per Foucault. Non lo so chi sia. Detto questo, ho dato un esame di sociologia. Uno. Tu, brava. Cos'era? Come ben sai, nella facoltà di scienze politiche in via Conservatorio. Ma infatti, che esame era di sociologia? Sociologia 1, sistemi sociali comparati, vabbè, ma una cosa. No. Quella è proprio una palla. Il tuo alter ego sicuramente l'aveva passato l'esame. Il mio alter ego l'ha passato a pieni voti. A pieni no, voti. Il mio alter ego, non lo so, ditemelo voi qual è il mio alter ego. Mi conoscete. Dai, proviamo a strutturarlo bene. Allora, il tuo alter ego, ma no, è bruttissimo. Beh, israeliano. No, dai. No, come israeliano? Ti capisco come sera. Ti giuro che l'alter ego. No, dai. Il tuo alter ego, secondo me, però potremmo dire che è inglese. È inglese? È inglese, capelli lisci. Lisci, sì. Liscissimi. Da buon artista. No, secondo me perché il nazista è disinteressato alla politica. Io la vedo più una roba, tipo la Gossip Girl, no? No, sai cosa? Secondo me, guarda, te lo descrivo bene. Vai. Adesso mi è venuto un po'. Attenzione. Allora, boh, più o meno, cioè, di un paesino della provincia di Napoli. Ok. Con i pantaloni a sigaretta bianchi per il sabato sera con le Hogan. Il borsello, borsello finto di pelle di Gucci. Attenzione. Che mette su Instagram le foto di quando mangia carne e scrive ha ha ha vegetariani. Minchia, ma dettagliatissima proprio, eh? Molto dettagliato, sì, ma perché ma è pensando a qualcuno. Esatto. C'è la mia nemesi. Ah, la tua nemesi stai cercando. Sì. E poi vabbè, cioè, guarda il Grande Fratello. E quando gli chiedono della Palestina dice ah ma quelli non sono terroristi, ma gli arabi non sono terroristi, e questo è il mio alter ego. Vero, questa è proprio la persona dalla parte opposta del diagramma dell'esistenza rispetto ma a non hai detto dei capelli? Sì. Esatto, capelli. Capelli, mm-hmm. Capelli lisci, capito, tipo tendina con la riga in mezzo, ma poi si fa anche le sopracciglia. Quanto lunghi? Quanto lunghi? No, non lunghi, cioè curati, capito? Sai quelli che se li curano perfetti. Ok, ma quindi hai tipo, cioè sono comunque corti, rasati, ma hanno una loro lunghezza. Esatto, bravissima. Ma tipo ciuffettino un po'? Tipo ciuffettino, sì, che va dal parrucchiere una volta a settimana. Okay. Soprattutto importante il dato delle sopracciglia. Certo, certo. Quello è fondamentale. Ma c'hai anche il taglietto fake su un sopracciglio? Ma è uomo o donna sta tipa, sto alter ego? È uomo. Uomo, giustamente. Però può valere anche per la donna, eh. Mm-hmm. Cioè non facciamo discriminazione di genere. Ma il taglietto classico sul sopracciglio destro? Il taglietto destro? Sul sopracciglio non lo so, su quello ci dovrei un po' riflettere. Okay. Perché... Va bene, a questo punto Leila, abbiamo per te solo un'ultima richiesta, che canzone vuoi ascoltare? Finiremo con te la nostra zona rossa estemporanea di lunedì, sì. Così. Dai, dici una canzone, qualsiasi. Se non ce l'abbiamo... Una canzone? Se non ce l'abbiamo nella nostra libreria andiamo a cercarla nella stanza dei vinili. Allora, Enzo Avitabile e Amal Mourcous canta Palestina. Minchia, ma sei proprio sei poco lanciata in questo periodo. Come mai? Vuoi farci un aggiornamento alla Palestina? Ma infatti, guarda, di solito quando mi chiamate per parlare di Palestina oggi mi avete preso un po' così. Dai, intanto diamo una pausa, su. Non possiamo mica... Allora, quando ho visto la tua chiamata ho detto adesso ci sarà un accollo di una verdura, di una roba da ritirare, certo, perché poi quando ve le lascio però non le volete le verdure, eh? Ma è bella sta gente che si lamenta quando gli dai da mangiare. Va bene, non ti preoccupare, dai. La prossima volta li do a Casa Pound le cose che mi danno. Datele a Casa Pound. Va bene, vado, super. Basta. Va bene, Lelly, ma quindi parlaci un po' della Lela Modotti, dacci qualche news dalla zona 3. News da zona 3 e zona 2. Fa molto caldo in magazzino. Abbiamo paura di un'invasione di insetti. Possibile. Sta creando un microclima interessante. Ah, siamo ai tropici più o meno. Poi, allora, se qualche compagno o compagna della Croce Rossa mi ascolta, anche se non credo, però lo spero, cioè basta con le uova di Pasqua e le colombe. Perché noi non siamo sappiamo a luglio. Più cosa fare. Ma siamo a luglio, ma dove siamo a luglio. Le uova siamo di Pasqua, luglio, scusa. Sì. Basta, non ha senso, cioè... È tutto un uovo di Pasqua il magazzino dell'Elena Modotti. Ma ci sono 50 gradi, sono un attimo a essere turbati. Ci sono 50 gradi, uova di Pasqua. Ci sono 50 gradi, ma questi la Croce Rossa non gliene frega niente dei gradi o dei non gradi. Per loro cioè, è sempre Pasqua, evidentemente. Allora, comunque no, dall'Elena Modotti va tutto bene. Cioè, iniziano i compagni e le compagne della brigata a dare dei segni di cedimento mentale e anche fisico, ma penso che sia normale, il zanzare, il tempo, ci sta, le consegne, tutto. Sì. E, infatti io vi consiglio di chiamare Fabrizio perché lui potrebbe... No, allora in realtà adesso abbiamo finito proprio il nostro tempo perché da poi adesso iniziamo assemblea, abbiamo avuto questa alzata d'ingegno di disturbare qualcuno al telefono e poi bisogna dire, perché noi siamo un compagno che... cioè un compagno, siamo un programma che se la sbirra gioia ha deciso di chiamarti per disturbarti. TVBBBBB. Forse perché sei nei suoi pensieri e qui certo, torniamo sempre. Su quello... Anche voi siete sempre nei miei pensieri. La zona rossa un po' erotica, un po' piccantina. Ma tutte le mie amiche sono per me erotiche. Comunque anche da voi fa caldo, vi sento abbastanza accaldati. Ma va, figurati, qua zona sud, siamo già alla rivoluzione climatica, ci sono solo alberi, abbiamo 7 gradi in meno rispetto al centro città. Almeno 7 gradi in meno rispetto al centro città. Esatto. Comunque pensa, oggi vi ho citato proprio qualche ora fa. Mi spiace per te. Perché? perché dovevamo nascondere della verdura marcia e non sapevamo dove buttarla. Io ho detto, perché non andiamo nei campi vicino a Zam a lasciarla lì così? E simpatica. Poi mi avete chiamato, guarda un po' simpatica il destino. Simpatica la compagna, simpaticissima. Ti chiamerò più spesso, esatto, ti chiameremo tipo verso le 3 del mattino, quando è piacevole. Va bene, dai, facciamo partire. Allora adesso ascoltiamo la tua canzone e ti bravi, diamo tanti bravi baci. Ciao Leila, grazie. Ciao Lelli. Ciao, ciao. Ciao a tutti e tutte, ciao. Ci vediamo, sentiamo. Mercoledì con il Guglielmo Nazionale e il Pica ci saranno. E poi magari ci sono anch'io, no? Non prometto niente, gioia, speriamo. Adesso che le ribelli non ci sono più. Ciao. Va bene, ciao. Ciao. Yes, bit reverberant. Reverberant. Reverberant. Reverberant. Reverberant. Reverberant. Reverberant. Reverberant.